tutti. E intanto, vabbè, vi ringrazio per la visibilità che, come sempre, i microfoni di Radio Onda Rossa sanno dare sia alle voci delle persone internate nelle gabbie delle carceri e dei CIE, e anche alle lotte che vengono portate avanti all'esterno in sostegno dei migranti, delle migranti e dei prigionieri. E come penso sia noto ai più, da Lampedusa a Torino, nei diversi campi di internamento etnici dove vengono rinchiusi migranti con diversi status giuridici, ma per lo più in attesa di una deportazione forzata, sono in corso delle lotte generalizzate, collettive, che vedono protagonisti quasi la totalità delle persone internate. Diciamo che alla ribalta della cronaca c'è sicuramente il trasferimento totale di tutte le persone rinchiuse dentro il CPA di Lampedusa, ma come sappiamo questi riflettori così accesi su quanto avviene a Lampedusa nascondono tutto quello che è un processo di normalizzazione e riforma di quelli che sono i campi di internamento per migranti e le espulsioni forzate della Fortezza Europa. Infatti, diciamo che la forte indignazione che sta provocando quelle che sono le condizioni brutali di internamento, che sempre di più vengono, diciamo, attenzionate dai media, fanno in modo tale che si chieda di umanizzare quello che è il trattamento riservato ai migranti e alle migranti, ma non di abolire quello che è tutto il sistema di sfruttamento e di oppressione che vede innanzitutto le persone migranti perché maggiormente ricattate. Come saprete, dal CIE di Ponte Galeria ci è arrivato un grido a denti stretti di rabbia fatto dalle persone internate che sono per la maggior parte in sciopero della fame. Come sapete, alcuni hanno compiuto anche il gesto estremo di cucirsi le labbra. Erano in 10 le persone con le labbra cucite, di cui 5 sono state deportate violentemente nella mattinata di ieri, e ora uno si trova in infermeria perché è svenuto, mentre ieri sera un altro ragazzo, in seguito a delle infezioni riportate dalla sutura delle labbra, ha avuto delle crisi respiratorie. Diciamo che quello che avviene dentro il CIE di Ponte Galeria viene attenzionato in questo momento proprio di fronte a questi gesti estremi, tra cui tra l'altro il tentativo di suicidio di una ragazza che davanti all'annuncio di una deportazione ha pensato di compiere questo gesto. È stata prontamente salvata dalle compagne di cella, le quali hanno poi iniziato una forte protesta insieme a tutte le altre detenute, bruciando anche suppellettili e materassi che erano presenti nel lager. Ora arriva anche la notizia che a questa ragazza, in pessime condizioni di salute in seguito al tentativo di suicidarsi, è stata annunciata la deportazione forzata per la mattinata di domani. Quindi sicuramente tutto ciò che sta facendo accendere i riflettori e l'attenzione di fronte a quello che è l'internamento etnico dei migranti e delle migranti sta infastidendo quelli che sono gli enti gestori e anche le persone al governo, tant'è che si provvede immediatamente a deportare le persone per allontanare il problema. Sempre per fare un riassunto molto breve di quanto sta accadendo in queste ore, anche nel CIE di Torino è in corso uno sciopero della fame massiccio e compatto, in seguito anche a un pestaggio che è stato portato avanti dalle forze dell'ordine nella mattinata di ieri, proprio nella sezione femminile, dove diciamo che la maggior parte delle ragazze nigeriane hanno dovuto resistere a quella che è stata un pestaggio brutale delle forze dell'ordine. Io adesso ho pensato di fare questo breve riassunto, ma per parlare cronologicamente di quello che avviene dentro le mura dei lager della Fortezza Europa, bisognerebbe andare giorno per giorno a raccontare anche quelli che sono i gesti di ribellione che hanno portato alla chiusura totale di alcune strutture. Infatti alcune strutture si trovano chiuse perché demolite dalla rabbia delle persone internate. Ora, in tutto questo quadro, noi pensiamo che sia importante dare, diciamo, man forte a quelle che sono le proteste le proteste delle persone che sono internate nel CIE di Ponte Galeria, proprio perché è alle porte di Roma ed è quello più vicino a noi e anche più invisibile. E quindi ci siamo dati un appuntamento per il 26 pomeriggio alle 5 del pomeriggio davanti le mura del CIE di Ponte Galeria per un presidio di 2 ore per gridare la nostra vicinanza e solidarietà a chi sta portando avanti questa lotta determinata, ma anche per dire che i CIE non si possono riformare, vanno chiusi e basta, non esiste un lager umano e la sola presenza di strutture di questo genere proprio vicino casa nostra riduce enormemente quello che è anche la libertà di ognuno di noi. Quindi diciamo che come compagni e compagni di Roma ci siamo dati appuntamento alle 4 del pomeriggio a Stazione Ostiense per raggiungere insieme il presidio, come di consueto, come abbiamo fatto molto spesso. Pensiamo appunto di prendere il trenino all'incirca alle 4, il trenino che va verso Fiumicino, scendere a Fiera di Roma e animare 2 ore di presidio. Per chi volesse raggiungere il presidio autonomamente, si può raggiungere dalle 5, insomma ci sarà amplificazione, spazio per interventi, invitiamo tutte e tutti a portare insomma un contributo dignitoso e invito anche le persone che insomma conoscono e parlano altre lingue a portare insomma i loro contributi per fare in modo di comunicare nel miglior modo possibile con le persone all'interno del lager. Perfetto, senti, sei stata perfettamente esplicativa. Un'altra cosa che insomma appunto proprio anche nei giorni scorsi dai microfoni della radio sono state mandate insomma delle testimonianze che raccontavano anche di questa entrata delle forze dell'ordine in massa all'interno del CIE di Ponte Galeria con soprattutto ritorsioni contro che stava portando avanti lo sciopero della fame, la protesta con le labbra cucite, deportazioni, insomma sicuramente all'interno del CIE di Ponte Galeria c'è una situazione abbastanza tesa sia al maschile che al femminile, insomma appunto un po' come hai raccontato tu. Ci sono continue ribellioni e via dicendo, quindi insomma questo anche per ricordare che c'è insomma da dentro c'è continuamente una richiesta di lotta insieme da dentro a fuori, proprio perché insomma i CIE stanno sul nostro territorio, stanno nella nostra città, perché Ponte Galeria è Roma ed è allucinante che possano esistere questi luoghi, certo. Proprio insomma vicino a casa nostra, vicino ai nostri centri sociali, vicino alle nostre radio, che insomma tengono in detenzione persone in modo del tutto illegale e insomma senza possibilità alcuna poi di poterne uscire, se non con le deportazioni. Infatti è giusto ricordare che quella dei CIE è una detenzione amministrativa che viene diciamo impartita non su base di atti compiuti ma proprio sulla base di chi sei, il tipo di internamento appunto riservato alle persone che si trovano nei CIE è appunto con la sola colpa di esistere e di voler aspirare a una vita degna magari lontano dal luogo dove si è nati. Io volevo aggiungere le ultime 2 cose perché penso che siano piuttosto importanti. È ormai chiaro che al governo stiano tentando di fare una manovra di riforma di quelli che sono i diversi centri di internamento per migranti ed è ormai chiaro che tutto il sistema di gestione che è stato regalato alle cooperative varie che hanno mal gestito questi centri vuole essere riportato tutto nelle mani della Croce Rossa. Ricordiamo appunto che la Croce Rossa non solo è stata responsabile di pestaggi e brutalità varie in passato e tuttora dentro i CIE come quello di Torino, ma ricordiamo anche che la Croce Rossa è un corpo militare, quindi è sicuramente il miglior modo per ritornare a nascondere tutto quello che avviene dentro quelle gabbie. Un ultimo dato che è giusto ricordare proprio in questi momenti in cui stanno deportando le persone dal lager di Lampedusa in altri CIE, perché ricordiamoci che quello è un centro di permanenza di accoglienza temporanea e sempre vengono deportate le persone in altri lager da quel posto, e diciamo una delle responsabilità è sicuramente nel business delle deportazioni interne tra un CIE e l'altro è sicuramente quella delle Poste Italiane, la quale compagnia aerea Mistral Air, che fa parte del gruppo delle Poste Italiane, gestisce questo sistema di deportazioni interne tra un lager e l'altro, sparso nella penisola. Quindi evito di fare associazioni fra persone e pacchi postali, ma purtroppo è un trattamento che riguarda il business di un'industria come quella delle Poste Italiane. Sì, senza calcolare insomma anche tutto l'impiego delle forze militari per il controllo del, insomma, tutta l'operazione Mare Nostrum, tutto il controllo delle coste, gli accordi con gli altri stati, insomma diciamo che sicuramente questa questione della gente che si muove, dei migranti nel Mediterraneo, oltre a essere una questione economica non indifferente, perché poi tutti i CIE, nonché tutte le persone, costano un sacco di soldi, c'è gente, molta gente che ci guadagna e ci mangia, ma comporta anche una, diciamo così, una scusa per continuare ad armare i paesi per questo fantomatico controllo del Mediterraneo o addirittura delle coste dei paesi da dove queste persone migrano. Quindi c'è sicuramente anche tutta una strategia militare di controllo ben più larga e forte di quella che poi ci vogliono far credere. Io non so se volevi aggiungere qualcosa, se non ricordiamo l'appuntamento che c'è domani, scusate, il 26, quindi dopo domani, a partire dalle 4 per chi vuole andare con il trenino verso Ponte Galeria, altrimenti dalle 17 direttamente a Ponte Galeria, al CIE di Ponte Galeria, dove il trenino, la fermata del trenino però non è quella di Ponte Galeria ma è quella della Fiera di Roma, giusto? Sì, sì, giustissimo. Perfetto, io ti ringrazio come al solito, sempre molto attenta e esaustiva, e ci sentiamo e ci vediamo nei prossimi giorni, il 26. Allora, speriamo. Ti ringrazio, un abbraccio a tutte e tutti, buona lotta, e soprattutto buona lotta a chi ci ascolta dalle gabbie del lager di Ponte Galeria, perché ci stanno ascoltando.